Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Un saluto a tutti da Francesco Galante, ben trovati in questo nuovo appuntamento insieme all'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, l'Adico. Con noi il presidente Carlo Garofolini, benvenuto Carlo. Ciao Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. Carlo, con te, anche se siamo alla fine delle vacanze, parliamo ancora di uno dei molti casi che si verificano e che magari l'Adico segue, di vacanze rovinate, anche se in questo caso credo che la vacanza non ci sia stata proprio. Sì, è inevitabile non poter parlare di questo argomento perché puntualmente a settembre arrivano sempre ai nostri tavoli quelle che sono un po' le disavventure che molte persone si sono trovati coinvolti durante il periodo delle vacanze. E come hai anticipato tu, in questo caso addirittura parliamo di una situazione in cui le persone si sono rivolte a noi perché in vacanza proprio non sono riusciti ad andarci. Raccontiamo quindi una vicenda specifica che state seguendo, no? Praticamente questo signore che abita nella provincia di Venezia tramite internet si è rivolto alla Infinity Experience, un'azienda con la sede di Lugano, per prenotarsi un viaggio assieme alla moglie a Dubai. E questo signore, nel caso specifico, ha versato interamente la quota per un importo complessivo di 2.664 euro, e a distanza di oggi, per vicende sempre più rocambolesche, il signore, oltre a non essere riuscito ancora a ripartire, non ha ottenuto la restituzione di quanto ha versato. Precisiamo che il signore non è partito non per volontà sua, ma per una serie di disguidi che l'agenzia si è trovata a far fronte in varie situazioni, per esempio perché non avevano raggiunto il numero minimo di partecipanti, perché altre volte si sono fatti avanti dicendo che alcuni turisti non avevano i documenti in regola, insomma tante cose che ad oggi comunque ha impedito ai signori di partire e di vedersi la somma restituita. Ecco, è una cosa molto brutta questa, nel senso che proprio non è riuscito a partire e neanche i soldi gli sono stati restituiti, addirittura ci potrebbe essere una richiesta di danno. Sì, una cosa molto brutta, perché oltre a non essere andato in ferie l'anno scorso, il signore non è andato in ferie quest'anno perché pensava di andarci con i soldi che gli avevano promesso di restituirgli entro quest'estate. Quindi con i soldi si era programmato di tutte le ferie quest'anno, ma quindi non ricevendoli è rimasto a piedi fregato anche quest'anno. Certamente una vicenda che adesso i nostri uffici legali hanno preso in carico, perché chiaramente qua oltre al danno patrimoniale c'è anche il danno morale, quanto oggi ricordiamo che la nuova disciplina prevede anche il riconoscimento del danno morale, che deve essere determinato sul grado di unicità che la vacanza può avere. Come mi è già capitato, ci sono persone che aspettano una vita per fare la vacanza da sogno, pensiamo chi va magari in viaggio di nozze, chi magari vuole festeggiare una ricorrenza dei 50 anni vista l'unicità, certamente questa vacanza, anche determinata da un fatto di irripetibilità, potrebbe assumere un valore morale diverso da chi magari ci va ogni anno per in maniera molto più semplice. Certo, quindi la cosa che dobbiamo ricordare è che bisogna stare attenti anche con le agenzie di viaggio. In questo caso aveva prenotato online. Sì, ricordiamo che anche quando si prenota online bisogna sempre stare molto attenti, perché questo è il caso specifico di un acquisto effettuato tramite internet che non è andato a buon fine, di cui appunto il signore adesso agirà nei confronti di questa agenzia, ma che noi ricordiamo sempre agli ascoltatori che quando si effettuano questo genere di operazioni è sempre bene fare tutta una serie di verifiche sia da parte dell'agenzia, del tuo operator, ma anche della documentazione che è bene richiedere in anticipo, come per esempio può essere un'assicurazione, per esempio può essere anche le condizioni di rimborso qualora non si riescano a effettuare certe prestazioni, ma anche è importante verificare le recensioni e soprattutto anche la serietà dell'agenzia, perché molte volte ha il numero di telefono, è meglio anche verificare l'interlocutore che abbiamo dalla parte opposta del cavo, del filo. Poi è importante mai saldare completamente il costo dell'operazione, ma sempre è bene cercare di limitare il più possibile quelli che sono gli acconti, e utilizzare, quando si acquista tramite internet, carte di credito ma ricaricabili. Sono tutte giuste osservazioni che bisogna tenere a mente quando andiamo a prenotare qualcosa. Certe volte sulla fiducia si tende a omettere di essere attenti e scrupolosi, e poi capitano i disagi, i problemi e le conseguenti vacanze rovinate. Ricordo sempre che l'Adico ha il sito www.associazionedifesaconsumatori.it, dove si trovano numerose notizie ma anche i contatti per chiedervi un eventuale aiuto. Grazie al presidente Carlo Garofolini, alla prossima settimana. Grazie a te Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.